Dragon Age Origins, per quanto godibilissimo, soffre della sindrome Friends, epocale nel 94, ancora fresco nel 2002 e francamente vecchio nel 2010.